dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! Ed era un po' che non ci sentivamo, quindi bentornati all'Onda in Onda dagli studi di Radio Panorama. Vi diamo il benvenuto in questa nuova puntata, con questa bellissima giornata. La prima puntata di primavera, praticamente, dell'Onda in Onda. Sì, e sì. Io sono felice di dare il benvenuto soprattutto ad Antonio. Che è tornato. Che è tornato. Sì, perché dopo la pausa pasquale io già ero mancato il mercoledì precedente. Quindi ciao a tutti, ciao Bruma. Ciao. Il miglior regista del mondo, ce l'invidiano tutti. Ci ha contattato anche Radio Telezorba e lo vogliono. Sì. Offrono 20.000 euro, li prendi? No, non mi conviene. Molto meglio gratis. Comunque, ecco, Radio Telezorba, tra l'altro, lo rivuole indietro perché abbiamo rubato dal bagno. Era puliva i cessi. Io pensavo dicessi, ma Radio Telezorba, tra l'altro, non può esistere perché c'è la parola radio insieme a tele. Ma diamo subito i nostri contatti. Invece, no, lui ha detto un'altra cosa. Va bene, diamo subito i contatti per mandarci un sms al numero 380 7690 204, oppure potete chiamarci al numero di telefono fisso 091 888 5182. E ovviamente, se non lo state già facendo, se volete seguirci in streaming e vederci anche in webcam, giusto? Funziona come sempre. Certo. www.radiopanorama.info o.eu. E questi sono i nostri contatti. Anzi, potete anche contattarci anche su facebook.com/londainonda e su twitter.com/ondainonda. Quindi chi più ne ha più ne metta. E poi, ovviamente, oggi ci sarà una puntata chiaramente bella, diciamo, ricca, bella ricca. Sì. Avremo un'intervista con Matteo Moranduzzo per la nostra rassegna di Rock e Pop. E poi, invece, il nostro Marco di Film Brutti ci proporrà un regista che è scomparso qualche giorno fa. Enzo, se non sbaglio, Iannacci. Ieri. No, non è un regista. Ah, vero, quello è un cantante. E con un film brutto che ha appunto girato questo regista. Diciamo che sì. Dopo Jacopetti ci ha lasciato anche lui. Saprete più tardi chi è, restate con noi, ma chi, insomma, è dell'ambiente film bruttesco già sa di chi stiamo parlando. Il famoso ambiente film bruttesco. Sì, chiaramente. Poi, insomma, restate con noi perché ci sarà la classifica delle 10 cose che, e poi un po' di interviste con diversi personaggi, se non sbaglio, vero? Sì, abbiamo un po' di ospiti, anche perché dopo la pausa pasquale io penso che riusciremo a collegarci con il Colle, che sta gestendo una situazione l'ultima, molto difficile. Credo l'ultima intervista col Colle. Credo, no? Di sì, perché poi il 18 aprile inizieranno i consulti. Vabbè, ma oggi è giorno 3, in effetti potremmo risentirlo anche il 10 e il 17. Vediamo. Ma intanto oggi lo avremo. Comunque non possiamo assolutamente cominciare tutto questo se non con la nostra bellissima sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clappio, doppio, piermo, che va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito del sangue. Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito del sangue. Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito del sangue. Eccoci qui in diretta, quindi con Radio Panorama, con l'Onda in Onda. Io volevo subito salutare Stefania, che è all'ascolto da Palermo, ciao cara, e tutti i nostri amici fedelissimi che ci stanno ascoltando, in particolare Giuseppe, che oggi ha dato un esame all'università e fra 6 materie diventa medico. Un bel applauso per Giuseppe Valletta, subito! E vai. Benissimo, tante notizie. Hai già annunciato il nome della classifica di oggi? No, ma lo annuncerò a breve. A breve? E sembri quasi napolitano che si sta autoconsultando. Sto dando un mandato esplorativo alla classifica del gioco. Comunque, abbassa leggermente, regia, il sottofondo. Comunque, non, a voi ragazzi, non vi ha rotto un po' questa situazione di impasse politica? Tutti fermi, i saggi. Ma chi cazzo? Allora, no, più cosa che ne altro pensi? A me piace piace vedere la faccia di Crimi quando dice una cosa e sa già che verrà smentito un minuto dopo. Però per i nostri... Pare addirittura che Crimi non sia nemmeno un parlamentare, smentito da Crimi. Non Ma è vero. Per chi non sappia chi è Crimi, spieghiamo che è il portavoce del movimento. No, è il... No, capogruppo è il capogruppo alla Camera. Esatto. Capogruppo alla Camera del Buonasera, Movimento 5 ragazzi, Stelle. Buonasera, ragazzi, non lo so. Adesso mi sono... Vabbè, perché l'altra è la Lombardi, giusto? Sì, sì, sì. Sì. E allora, insomma, mentre Andrea si consulta, perché neanche lui sa di cosa sta parlando, quindi un po' come Crimi. Capogruppo al Senato. Mi ti sei crimizzato. Sei crimizzato. Non mi sono crimizzato, ma non ricordavo effettivamente. Comunque, diciamo che i 5 Stelle sono un po' Libera Chiesa e Libero Stato. Ma loro direbbero no. Noi cambiamo anche quello, libero Stato e libera Chiesa. Perché non sono d'accordo con nessuno e su niente. Tra l'altro a noi sta molto simpatico Crimi, vero Andrea? Anche la Lombardi. La Lombardi a me sta molto, molto, molto simpatica. Io veramente vorrei invitarla un giorno in radio. Sì, può essere che viene a te. Però come risponderebbe? Non risponderei. Ma poi sai, la tipica non ha i capelli sul rossiccio. Ma che ne so, io sono daltonico. Ma vero, per te potrebbe essere anche Verdini. Infatti Andrea è l'uomo con più incidenti stradali a terra. Ma vogliamo dare una cosa velocissima per i daltonici, una classifica velocissima, i 10 giochi a cui non puoi giocare con un daltonico. Comunque ecco, a cui non può giocare un daltonico. Solo i titoli, Puzzle Bubble, quello delle bolle da scoppiare. E infatti io nel cellulare c'ho questo gioco, però con la cosa per i daltonici, quindi vedo i simboli. Ah, non quindi vedo... tu non puoi giocare. Esatto, okay, Mastermind poi chiaramente, perché è quello con le palline, no, da ricordare i piolini. La sequenza. E anche quello non ce la fai. Non ce la faccio. Poi Shanghai. Non parliamo di Shanghai. Vengono le crisi epilettiche, ma Shanghai più che altro, scusami, i cosi colorati, ricordami, non è per il punteggio. Però poi comunque Shanghai riuscirà. Non puoi giocarci neanche con uno, con uno che ha il Parkinson, però non solo con un daltonico. Esatto, quindi sono giochi che entrano anche in un'altra più grande categoria. Uno, chiaramente. Uno. Poi non puoi giocare a colorare. Ma tu non hai mai colorato, bambino? O se colorati? No, io non sono daltonico, proprio daltonico. Lui faceva tutti i bambini di colore. Alcune sfumature di verde e rosso non le vedo. Quando lui da piccolo chiedeva alla maestra di disegnare qualcuno, i bambini, lui disegnava tutti i bimbi di colore. E la maestra pensò, mamma, c'è con la mamma, ci lasci qualche fratellino non previsto. Però il gioco più brutto da non fare con un daltonico è Strega Comanda Colotto. Perché... Strega Comanda Colore Arancio, i bambini hanno già toccato la qualunque, lui è fermo, è la stanza che piange. E alla fine il cubo di Rubik. Il cubo di Rubik, ovviamente. Quello però. Più triste. Però c'è la famosa vignetta. Infatti il vantaggio è daltonico. E comunque l'ho sia fatto. Hai fatto il cubo di Rubik. Va bene, io dico è tempo di spararci il primo pezzo. Sì. Ok, allora andiamo subito alla grande con i Green Day con Is Jesus Nowhere. Ad ogni ora grandi successi di ieri e di oggi. La tua musica, la tua radio. Panorama. A última noche. And we will see how godless a nation we have become. Confession. eccoci qua, sempre qui in diretta dagli studi di Radio Panorama a Termini Imerese. Anzi, se volete veniteci a trovare. Intanto il regista si tocca per vedere se il cervello si tocca. Bussa al cervello per capire, sì, se è vuoto. A proposito di toccarsi, dobbiamo dare subito una notizia importantissima. Però ricordiamo che per le vere notizie, sì, cioè queste sono vere, ma sì, quelle ancora più vere, sì, però diciamo, queste sono vere vere. Chiaro. Vere vere vere. Quelle ancora più vere. Che hai? No, perché magari qualcuno pensa che quello che leggiamo è falso. Sì, appunto. Quelle più vere sono alle 19. Alle 19 con il TG Lercio del sito lercio.it, che vi consiglio di andare a visitare perché vi fa sganasciare dalle risate. No, ma perché danno notizie vere che però i normali media non passano. Esatto, cioè quelli tradizionali non le passano. Non sono censurate dai media. Sì, e invece noi le diamo in esclusiva a Radio Panorama ogni mercoledì alle 19. Comunque, qualcuno pubblicando una notizia di Lercio ha scritto: ah, e quelle suona che sui grillini c'era una fantomatica regola 25.000 di un regolamento, detto mi si quale sarebbe questa regola, qualche cretino che ci ha creduto. A proposito di toccarsi, quindi dicevo per il nostro regista che stava aggiungendo qualcosa, cosa dicevi caro Boom? No, dico che questa è una notizia per te, insomma. No, sì, io parlavo proprio del tuo modo di toccarti. Una notizia che riguarda, ci riporta a questo tema importante, perché noi non parliamo mai di sesso e affini. Infatti parliamo della dieta della masturbazione. Eccola. Si chiama dieta della masturbazione, appunto, e secondo un medico giapponese funziona, sì, ma solo per gli uomini. Ovviamente il nome del medico lo devo leggere io. Il medico si chiama Hideo Yamanaka. E come hai fatto? Non lo so. Ed è il direttore della Toranomon Ibia Clinic. Toramono Ibia. Lui diventa una specie, vedi, lui ride il regista, lui diventa un samurai. Non è che lo può leggere della Toranomon Ibia Clinic, no? Toranomon Ibia Clinic. Si medesima nel personaggio giapponese lui. Sì, lui proprio entra, è peccato, lo sa poco leggere. Questa dieta l'ha chiamata Onani Bix. Onani, yeah, come onanismo, non come Onan. Sì, in onore di Onan, il grande guerriero, il grande Onan. No, qual era Conan? Quella Conan. Ah, Onan è nella Bibbia. Ah, detto, lo sai come si chiama quello che invece sa fare bene la spesa? No, il grande Conad. Madonna. La teoria del medico giapponese è la seguente: l'eiaculazione arriva, attiva il metabolismo di base dei muscoli. Aspetta, l'eiaculazione arriva, attiva. No, attiva il metabolismo, ah, okay, di base dei muscoli. Questo lavoro dei muscoli fa bruciare calorie, di conseguenza si riduce il grasso sottocutaneo. Ma Yamanaka, a Yamanaka, perché prima era scritto Yamanaka, perché poi si è riposato. Ah, si è riposato ed è andato Yamanaka, ho capito, sì. Non basta una tantum perché la dieta faccia il suo effetto. Come tutte le diete ci vuole costanza. Certo. Non, l'amica. Non l'amica di costanza. Nome costanza. Costanza. E allora bisogna masturbarsi almeno 100 volte al mese, cioè 3 volte al giorno, domeniche comprese, presumo. Tra l'altro. Non so, e non retribuite. Esatto, non solo, è assolutamente da evitare l'eiaculazione precoce. La masturbazione deve durare almeno 15 minuti per raggiungere il giusto livello di sforzo. Ma ti prende a fuoco dopo 15 minuti. Magari. Ma anche la mano. Cioè, altrimenti il rischio che possa essere fatica sprecata. Cioè, a parte la l'igiene, tu immagina dopo sta roba che tu la fine settimana accarezzi tuo nipote, come se piglia una vampa di fuoco. Una vampa di Comunque noi dedichiamo questa notizia anche a Giulio, che ci sta ascoltando credo per la prima volta. Quindi ciao Giulio, impara questa dieta della masturbazione. Sì. Sesso in campeggio, turista massacrato di botte. Non sopportava i mugulì, i sussurri e le urla di piacere. E così aggredito. Che non è sussurri, cioè mugulì, sussurri, non potrebbe essere sussurri. Perché no, la parola mugulì viene da mugulio, che già ha una i, mentre sussurri viene da sussurrio. Non lo viene. Fai uscire, per piacere, apri la porta. Vabbè, sì, va bene, così, ha aggredito un turista in un campeggio perché faceva sesso troppo rumoroso con la sua compagna. L'aggressore è un giovane tassista di 23 anni, iniziali TR. A lui le iniziali vanno, le notizie con le iniziali. A me chiama Maka Mayo. E magari, cioè, ti immagini, la stessa persona si chiamava Toro Kuru Rekataka. Esatto. Il quale ha prima lanciato sassi contro il camper dei due amanti, poi ha cominciato a prendere a calci e pugni la porta del veicolo e infine ha compiuto l'aggressione. Il quotidiano Il Piccolo, che non si sa se è riferito alle misure del ragazzo, racconta che l'episodio si è verificato sabato 23 marzo attorno alle 2 di notte. Dopo insulti e urla, il tassista è passato all'azione, ha aperto la porta del camper, ha tirato fuori il turista incredulo e seminudo e gli ha piazzato un pugno in pieno volto, un diretto. Gli ha piazzato un pugno in pieno volto, un diretto. Ma che vuol dire? Sono due notizie punti, un po' così. Un diretto all'incredulo turista. Sul posto sono accorsi i cadaveri, vabbè. Vedi che non capita solo a me. Vabbè, perché ci sei tu accanto. Ai militari il 23enne, apparso completamente ubriaco, ha dichiarato di essere un libero professionista conducente di auto pubblica. Ora dovrà rispondere all'accusa di lesioni e ingiurie, mentre il turista aggredito ha riportato un trauma cranico e alcune contusioni. Invece io ho trovato una notizia, Andrea, che ti stavo facendo vedere prima. Sì. Hanno preso un Labrador, sì, che stava bene, cioè con se stesso. Ora non so che turbe mentali avrà da ora in poi. E non si sa perché lo hanno dipinto come tigro di Winnie the Pooh. Ma ce l'hanno proprio dipinto. Però non è male, non, cioè, è le foto male. Non sono male, malaccio. Ma sono... tu vuoi immedesimarti nel cane o pensi solo che le foto non siano malaccio? No, le foto non sono male di questo cane tigrotto. Come si chiama lui? Cioè chi l'ha fatto? Lilo. No, è lui. Matt Curran. Matt Curran. Con il suo labrador di 10 mesi trasformato in una tigre, appunto, il povero cane. Vedi, anche all'articolo dice il povero cane. Si è ma visto, è ovvio, cioè, ma ma io non lo capisco, perché devi dipingere un cane? Io spero, però è dipinto bene, cioè vorrei chiedergli come hanno fatto a dipingerlo così bene, tenere fermo un cane l'hanno per dipingerlo. Penso l'abbiano addormentato. Cioè, non credo che gli danno tutta una mano di arancione, tutte queste strisce. Senti, nere. Io torniamo a parlare invece di una cosa molto più importante che non abbiamo trattato due volte in questa trasmissione, che è l'APSAS. Io voglio vorrei fare un appello, vorrei anche un applauso per l'APSAS. Per l'APSAS favore. È una malattia che dà molto. Fai godere l'applauso. No, non ho detto il tripudio, l'applauso. Che fa molto rabbrividire le persone. Diciamo, bisogna anche provare una. Sì, scusa, dimmi. La musica di Super... sì, prego, perché no, per la notizia è meglio una musica scientifica, scienziata. Hai ragione, perché bisogna trovare una cura per questa PSAS. Vuoi io leggere la definizione? Vorrei, di PSAS? Sì, magari, no, più che altro vorrei veramente che la ricerca si interrogasse su questa su questa terribile malattia, la PSAS. E noi abbiamo già trattato due volte, due notizie identiche in questo nostro iter di questi anni. Qui a Londra in Onda abbiamo conosciuto diverse donne affette dalla PSAS. Cos'è la PSAS, professor Massaro? La PSAS, Persistent Sexual Arousal Syndrome, è la arousal è un vecchio tirannosauro. È la sindrome da eccitamento sessuale permanente. È un fenomeno molto complesso ed altrettanto raro, che colpisce esclusivamente la popolazione femminile. Cazzarola. Perché? Sgradevole e dolente. Sgradevole chiederei a chi ne è interessato. E va assolutamente differenziata per caratteristiche e vissuto della donna, della sindrome da ipersessualità femminile. Va bene, questo è stato un piccolo assunto. Ma qual è la notizia? Perché sì, ne è stata colpita un'altra, Amanda Grice. Sì, è in continuo stato di eccitazione, tanto che per lei avere orgasmi è diventato un incubo. Ha solo 22 anni, mentre molte donne possono solo sognare di avere orgasmi multipli nella loro vita, per lei tutto questo è diventato un vero fastidio. Sì. La PSAS ovviamente è una grossa limitazione, visto che per lei stare in costume e uscire con gli amici è un vero disagio. Una semplice vibrazione di un cellulare, un suono più profondo, una piccola emozione, Amanda Grice comincia ad avere orgasmi in continuazione. Tu ti immagini, c'è un allarme incendio in una scuola, tutti scappano. Come farebbe, caro Bumbo? Come puoi farcela sentire? Come si chiama? Amanda Grice. C'è un allarme. E cosa potrebbe fare mai? Eccola, ah, ecco. Ma guarda che dobbiamo scappare. Non le interessa volere stare. La cosa tragica però è che, pur avendo contattato centinaia di medici, sembra che la PSAS sia oggi una malattia non curabile. Ed è per questo che Amanda ha deciso di condividere su YouTube la sua storia. So già cosa state per fare. Vabbè. Con la speranza che qualcuno possa riuscire ad aiutarla in qualche modo. Io vi invito a vedere il video su YouTube, sì, perché già la faccia dell'inizio di questo video è veramente, diciamo, goduriosa. Io vorrei vedere il sotto di Amanda Grice, scritto G-R-Y-C-E. Va bene. Se volete condividiamo il video sulla nostra pagina di Facebook, ma voi smettete di guardare la nostra, di sentire la nostra trasmissione. Invece allora, vi invito a rimanere con noi subito dopo il prossimo pezzo, così torniamo, che dedichiamo ad Amanda Grice, ovviamente, con l'Onda in Onda. Siete collegati Radio Panorama. She's sexy. How else is God supposed to? sexy. Move, you want the move, but you're hogging her, you're guarding her. She wants to move, she wants to move, but you're hogging her, you're guarding her. Beat it, mister. Look at your girl, she loves it. I can see it in her eyes, she. Her. Beat it, mister. Look at your girl. Damn. She loves it. She loves it. I can see it in her eyes. She hope you last forever. Hey, come on, mister. Look at your girl. Look at her. She loves it. She wants it. I can see it in her eyes. She. Che preferisci? Panorama. Musica allo stato puro. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can ride. Ed eccoci qui, tornati sempre in onda. Abbiamo ascoltato i The Lumineers con Oh Hey. Che è difficile, questa canzone da imparare a memoria. Abbiamo ricevuto un sacco cosa di polemiche. Cosa dice il testo? Oh Hey, Oh Hey, Hey Oh. I'll be loving you, you'll be loving me. You Believe Me. Believe Me. You Believe, believe Me. Me. Believe Abbiamo ricevuto un sacco di polemiche per questa canzone, un testo troppo complicato. Sì, dura tra l'altro tantissimo. Per una radio pomeridiana. Devo dire che il testo è veramente complicato. Sono le 18:38, ma stanotte saranno? Mezzanotte in 38. È in 38, è mezzanotte, è in 38, va bene, siamo sempre qui. E ci ha chiamato subito l'ufficio stampa del Colle. Sì. Ah, non c'è tempo di un'altra non notizia? C'è tempo. Subito il Colle. Noi vabbè. Abbiamo in cuffia il beep, tu non lo senti, che ci avverte che c'è l'ufficio stampa del Colle in linea, se mi date l'ok. Vabbè, io vado un attimo in bagno. Dovrebbe essere già in linea perché sento... Senti. Mi sbrigo, vado in bagno un attimo. La musichetta di attesa. Va bene, allora dovremmo... Ah, eccola. Dovremmo avere già... Vediamo se... Pronto. Sento dei vocalizzi. Ah, è il presidente che sta schiarendo la voce. Pronto. Credo che siamo in contatto con Napolitano. Pronto, presidente. Presidente, pronto. Mi sente, presidente? Pronto. Pronto, presidente. Pronto. Presidente Napolitano. Sento poco. Lei sente poco? Che significa? Devo chiamare un attimo. Allora, spiega alzo il volume. Ecco, mi sento. Presidente, buongiorno. C'è un po' di tos. Un po' di tos, eh beh, in questo periodo. Presidente, buongiorno, insomma, bentornato all'Onda in Onda. I problemi di collegamento sono un po' complicati, lo sappiamo. Ci dispiace per questo inconveniente. Presidente, la vedo. Lei è di poche parole oggi. Cosa c'è? Non sto bene. Non sta bene, che succede? Perché devo prepararmi a dire alla nazione qual è la scelta dal candidato premier. Ah, attenzione presidente, noi ce l'avamo lasciato l'ultima volta, se non sbaglio, prima delle elezioni. Assolutamente sì. Non ci sentiamo da molto tempo. No, ci siamo lasciati, sì. L'ultima volta che ho chiamato io era prima delle elezioni. Prima delle elezioni, poi però non ci siamo sentiti più. Voi siete tornati in onda parlando del risultato. Siamo tornati in onda, abbiamo parlato dei risultati. Poi è stato eletto addirittura il Papa. Io lo so, però non c'è stato modo di contattarlo. Presidente, sappiamo che ha avuto molti impegni. Quindi lei ha fatto una scelta e deve comunicarla alla nazione. Immagino che quindi non darà nessuna anteprima a noi di Radio Panorama, presidente. Però ci spiega il suo stato d'animo. Sono felice. Lei sta dicendo, ha scelto, mi scusi. Invece ho scelto di avvicinarmi al popolo dicendola prima a voi di Radio Panorama. Prima in radio addirittura. Sì. Attenzione. Perché altro non sa chi cazzo a convocare. Chi ci sta? Grill. Lasciamo stare. No, presidente, però. Rimanga super parte. Sta col Siro a smacchiare il Jaguar. Ah, è l'altro, Bersani. Dice. Onan. Sempre Bersani... che sono mio, scusate. Ah, già, lei. Dimenticavo che lei imitava. Egregiamente Berlusconi. Ho vinto anche una gara di imitazione. Ma quando? Dentro il collo. Dentro il collo. Tra lei e le guardie. Io, mia moglie. I corazzieri. E anche i leoni della piazza. I leoni della piazza, sì. Del Quirinale, sì. Senta, presidente, mi scusi, ma il mandato a Bersani è ancora valido o no? Guarda, però non può ridere. Quando lei Bersani ce lo manda è sempre valido. È sempre valido. Basta il che mandato. Lei ce lo manda. Lo deve mandare bene una volta. L'ha mandato bene. Quindi lei l'ha mandato, okay. L'ho mandato per bene. E quindi a chi affiderà alla fine questo incarico? Abbiamo visto che questi alla 10 saggi fine, perché alla fine. Dico, c'è stata la polemica, no? Che non è stata eletta, sì, sì, non è stata messa tra i saggi nemmeno una donna. Non è stato messo nessun personaggio di rilievo scientifico. Questo mi vorrei fermare un attimo. Sì, mi dica, presidente. Perché dico, a voi che voi dice che non c'è una donna là in mezzo? Sono tutti uomini. Ma, aspetta, alla NATO, facciamo. Intanto lei non dica dai, perché non sono suo fratello. Voglio dire, presidente. Magari scusi, dia, presidente. Quella direzione investigativa antimafia è un'altra cosa. Sì, mi dispiace, presidente. Però voglio dire, magari all'anagrafe, ok, ma vuole fare allusioni alla. Vabbè, cangiamo argomento. È meglio cangiare argomento. Bravo, presidente. Allora, diciamo, donne, scienziate. Lei l'ha visto che fine ha fatto lo scienziato là in Sicilia? Sì, l'abbiamo visto. È cacciato, appena. Zichi. Perché? Perché parlava dei raggi cosmici. Raggi cosmici. Ma chi cazzo se ne Presidente, non lo so, magari. Battiato, cacciato perché? Perché ha detto che in Parlamento ci sono le troie. Ha detto la verità. Come, presidente? Ma lei non può dirlo, è l'organo super partes. What? L'organo super partes. Io tengo solo un organo super partes e non sono io. E tra l'altro fra 10 giorni vai a casa. Ah, quindi lei dice ormai 10 giorni. Ormai si porta spara, anche le posate. Ora vi dico quello che l'ho detto in tutti questi 7 anni. Ma lo dice proprio qui in radio. Invece perché sì, non ci dice. No, noi non vogliamo. Si levasse sto microfono e parla. No, io buonasera vorrei... a tutta la presidente, nazione. Presidente, no, le chiudiamo buonasera. Il telefono, presidente. Buonasera. Presidente, mi ascolti. A chi dà il mandato? Lo vuole sapere? Sì. Basta che non dice querelare, che non ci fa querelare. Abbassi un pelo l'inno della parla nostra col suo, nazione. Col suo sì, mixatore col, al telefono. Io c'ho sempre un mixatore. Mi hanno chiesto un ruolo affidato a un giovane. Un giovane. Chi è questo giovane, presidente? Mi hanno chiesto di affidare il ruolo a un giovane. A proprio giovane giovane. Quanto giovane, presidente? Allora, tanto. Tanto dobbiamo essere sinceri, tanto. Presidente. Ma siccome hanno detto che ci stanno sempre i soliti nomi, e che i giovani diciamo di mezzo non vanno bene, e i saggi sono troppo vecchi, e non ci stanno donne, allora diciamo che ho preso una voce bianca. Come una voce bianca? Così era andata tra maschio e femmina. Un bambino, presidente. Lei mi sa che comincia a capire. No, presidente, una voce bianca è un bambino. È molto giovane. Ma come molto giovane? Ma non può farlo. Io glielo faccio introdurre dal pezzo che lui di solito mi chiede. No, il pezzo mi dice il mixatore. Il mixatore del colle non ce l'ha. No. Ma mi scusi, presidente, ma non è illegale. Cioè, comunque era un carillon. Era una certa età per l'eleggibilità a presidente del consiglio. Ma io prima di mollare ho deciso di cambiare questa norma. Ma cambiata la sua. Ma come? Ma non può. Ma tanto sono tra i padri costituenti, posso anche cambiare. Ma neanche. No, non è vero. Come c'è Andreotti tra i padri costituenti. E io no. No, lei no. Io ricordavo. No, guardi, presidente. Non c'era. Sta andando un po' in lui. Ma chi è questa persona? È lì con lei? Sì. Un bambino. Io allora, ve lo posso passare in esclusiva, non fatevi sentire da nessuno. E puoi venire qua. Amore. A voi, Michelino, il nuovo premier nazionale. Oh, Dio mio! Chi vai? Grillo! Sembra un po'. Sembra un po' un saluto fascista italiani, sembra. Vai dai! Vai, vai. È questo... Popi, il saluto è Popi. No, perché è arrivato là, il momento Bobby! Della scusi, presidente, vorrei soltanto sottolineare il fatto che il bambino non sa nemmeno parlare. Come fa a guidare un governo? Lei ha mai visto Di Pietro? Bobby! Non togliere il microfono al bambino, il telefono al bambino. Presidente, un attimo di silenzio. Parlavo con Mirino. E dico, lei ha mai sentito parlare? Non ricordavo. No, non c'è bisogno di fiducia. Lei ha mai sentito parlare gente come Di Pietro? Sì. E com'è possibile che ecco, vede? Allora, dove sta il problema? Può passarmi una cosa? Cosa pensa Michelino di faccio questo incarico? Faccio una domanda a Michelino, basta che sia pertinente. Allora, Michelino, e poi io direi che possiamo lanciare anche sì, un pezzo, sì. Presidente. Una sola domanda. Una sola domanda. Tipo il suo primo intervento di governo. Presidente Michelino, lei si sente preoccupato da questo incarico? Quando è pronto ad andare alle Camere a chiedere la fiducia, cosa presenterà come programma di governo in una frase riassuntiva? Cacca. Ah, cacca. Sì, hai detto proprio cacca, mi chiedi. Ha detto cacca? Sentiamo. Cacca. Quindi rappresenta effettivamente la situazione del paese. Lui va lì diciamo, presidente Michelino, noi la ringraziamo. Io sono fiducioso che questa cosa non potrà mai passare. Ma diciamo, se dovesse rinsavire, caro presidente Napolitano, noi saremo presenti qui. Perché ride come un idiota? No, perché pensavo che a cacca non è solo la situazione in cui stiamo, ma magari un modo anche per rinascere, diciamo, puntare al biologico, certo, alla natura, i concimi. Come dice, dall'etame nascono i fior. Lei... Dal diamante non nasce un cazzo, dall'etame nascono i fior. Sì, e mi quindi... piace anche di averle dato dall'idiota. Tutti insieme a dire viva la cacca. Cacca! Anche il regista, viva la cacca. E noi, in mezzo alla cacca, ci ascoltiamo. Fan con Sam Nights. Tanta cacca. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Tonight stops my bones from wandering to why I for this. I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan. So come on, and the calm she call love. Man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible night. E torniamo in diretta dopo questa intervista orrenda al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ma io non sono d'accordo, scusa, ci ha chiarito anzi i dettagli del futuro del paese. Io non credo che sia malamente, un'intervista da malamente, buttare. Malamente. Allora io direi di lanciare la nostra classifica delle 10 cose che... da non fare al primo appuntamento. Ecco, le 10 cose da non fare al primo appuntamento. Perché le 10 cose che? Perché le 10 la classifica cose le 10 cose. Ma queste da. Le 10 cose da. Vabbè. E allora cominciamo dalla posizione ovviamente numero 10, ovvero ostentare la propria situazione economica. Che tu sia ricco o povero non me ne frega niente. Hai finito lo stipendio il 10 del mese e guadagni più di quanto io prenderò in un'intera vita? E beh, non sono la tua consulente finanziaria. E questo potrebbe costarvi molto molto caro, parlando appunto di situazione economica. Ma andiamo alla posizione numero 9, che è la logorrea. E Antonio, dovresti leggerla da solo. Neanche un'ora e già conosco la tua infanzia, la tua adolescenza e immagino anche il tuo futuro da solo. Prendi coscienza dei tuoi limiti, asciughi più dei rotoloni Regina, ma a differenza loro, spero che questo appuntamento prima o poi finisca. Ma ti è mai capitato che per la tua logorrea qualcuno dice, vabbè, sai che c'è? Io non dovrei dirlo perché c'è la mia ragazza all'ascolto. Vabbè, prima. Ma di solito no, perché anzi era un modo per farmi tappare la bocca. Andiamo avanti. Mamma mia, allora, la posizione numero 8. Che è brutto da sentire, sì. È un modo per farmi tappare già, la bocca. No, no, ma io non sono mai stato, diciamo, racchiune. Oh, ma dai, dai. Era un bacetto sulle labbra innocente. Ora ovviamente Stefania sarà felice e mi scriverà. Comunque, l'uso costante del cellulare. Sei uscito con me o con il tuo iPhone? Prima ti chiama la mamma per sapere se hai mangiato, poi l'SMS del collega, poi l'amico ti scrive su WhatsApp per la partita di calcetto. La prossima volta vediamoci direttamente in un call center. Questo vale per tutti tranne per quelli che lavorano in un call center. Ma vale anche per Stefania che usa spesso il cellulare, vabbè. E poi andiamo velocemente alla posizione numero 7 e mi sa che dopo c'è un pezzo, vero? Eh sì, sì. Perché poi c'è la pubblicità. Ah, ok. L'imbarazzo dell'approccio fisico. Non so se tu sia un maniaco o l'eterno amico, ma patti chiari, amicizia lunga. Non te la darò al primo appuntamento, ma se mi tocchi non è che prendi di certo la scossa. Est modus in rebus, che vuol dire, Andrea? Come quando fai il rebus, no? Come quando fai il rebus. Est modus in rebus. Allora, come il modo dei rebus. Io penso questo che l'ha scritto uno delle settimane enigmistiche. C'è modo e modo per fare le cose, credo. Correggetemi se che res rei le cose. Ma perché devi tradurlo qui? Va bene, questa è la posizione numero 7 delle 10 cose da non fare al primo appuntamento. Ma se volete sapere la fine della nostra classifica, ovvero le altre 6 posizioni e poi il podio, le altre 6 posizioni, compreso il podio in realtà, restate con noi. Ma subito dopo la pubblicità rientreremo direttamente col TG più bello del mondo, ovvero il TG Lercio, direttamente dagli amici di Lercio.it. Quindi, a dopo, restate con noi. Ciao. Ad ogni ora, grandi successi di ieri e di oggi. La tua musica. La tua radio. Panorama. Buonasera e benvenuti all'appuntamento settimanale con il TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Andiamo subito con i titoli. Vito Crimi rivela, Grillo mi ha costretto a donargli i miei capelli. Essiccavano stronzi per rivenderli come pellet, sgominata banda nel viterbese. Capezzone prova gli occhiali di Berlusconi e resta cieco. Vagine ricavate dalle cellule staminali, boom di vendite su eBay, il Vaticano condanna. Politica, continuano le avventure della pattuglia grillina nei palazzi romani. Oggi i senatori 5 Stelle hanno votato per sbaglio alla Camera. Scienza, sarebbe il meteorismo la principale causa della solitudine. Hacker di Anonymous entrano nel PC di Claudio Messola e gli cambiano lo screensaver. Contro le violenze sessuali in famiglia, autobus gratis per gli stupratori seriali. Polemiche per l'iniziativa del Comune di Roma, ma il sindaco ritratta, ci saranno anche buoni benzina. Papa Francesco sbaglia taglia di pantaloni e li dona ai poveri. Fisico americano scopre come deformare lo spazio-tempo, ma dimentica di appuntarselo. L'Università di Ferrara consegna la laurea honoris causa in fluidodinamica all'americana Sasha Gray. Roma, pensionato, trovato morto all'interno della sua bara. Secondo la polizia, il decesso risalirebbe a 2 giorni prima del funerale. Arrestati i familiari mentre cercavano di occultare il corpo sottoterra. Rimandata in Texas l'esecuzione di un pluriomicida, il condannato all'uveite. Musica, è uscito il nuovo singolo di Marco Mengoni. Il suo agente scopre di avere un formicaio in un orecchio. Dall'India una missionaria rivela, Madre Teresa una santa donna, ma guai a toccarle i succhi di frutta. E questa era l'ultima notizia del TG Lercio, come al solito vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre a cura dell'Onda in Onda. Ciao! Machino, amo il machino, marica nena, ma sei un puttino, che è muy machino, amo il machino, marica nena, ma sei un puttino, che è muy machino, amo il machino, marica nena, ma sei un puttino, che è muy machino, amo il machino, marica nena, ma sei un puttino. Che non brinca il che non salte, che non brinca il c'è un desmadre, e quel che quedó conforme, e che cambió lo del informe, e che non quita la papa, también todo el que lo tapa, e che non hace lo che quiere. Su familia y a Iñaki, su hermano. Ed eccoci sempre qui dagli studi di Termini Imerese, Radio Panorama, e questa è L'Onda in Onda, sempre Antonio Panzica, Andrea Massaro e il Brum. È bene fare un ripasso della situazione, quindi abbiamo ascoltato le notizie del TG Lercio. Che ne hai pensato, Andrea? Molto belle e importante questo TG Lercio, lercio.it, vi consigliamo di andarlo a visitare perché i ragazzi sono veramente fenomenali. Ma sì, come abbiamo annunciato invece nella nostra anteprima, abbiamo con noi già al telefono, mi comunicano, Matteo Moranduzzo. Ciao Matteo, come stai? Ciao a tutti, bene, voi? Benissimo, benissimo, ora che ti abbiamo qui ospite anche meglio. Senti, come mi fa piacere. Sei lì a Firenze, dove ti trovi? Assolutamente sì. Ah, benissimo, quindi oggi abbiamo anche una bella giornata. Ah, ecco, volevo sapere questo, com'era il tempo a Firenze? Ottimo, ottimo. Oggi abbiamo due fiorentini. Due toscani. Due toscani, sì. Proprio, perché abbiamo anche Marco di Film Brutti, ci raggiungerà più tardi. Allora, Matteo, parlaci di questo tuo nuovo progetto. Sì, allora, intanto è uscito il singolo, no? Il ballo del drink. Che sì, ma noi sentiamo, scusami, sentiamo un riverbero. Siamo noi o no, c'è qualcosa aperto? No, no, io sono fuori in questo momento. Ah, beh, sentiamo, allora probabilmente sentiamo la gente che passa accanto. Va bene, parlaci di questo progetto, scusaci. Ti dicevo, ho fatto questo singolo, Il ballo del drink, che anticipa l'album che uscirà la prossima estate a settembre. E niente, sarà un album sicuramente interessante rispetto al primo, penso di essere maturato anche a livello di arrangiamenti e suoni, e penso che ci sia un salto di qualità, ecco. Sì, perché tu già hai fatto un album, ma cosa si differenzia il tuo primo album con questo secondo? Qual è la differenza principale e soprattutto di cosa parla? Sicuramente sarà nel sound. Ho interrotto la collaborazione con Riccardo Mori, che ringrazio, che è stato, diciamo, la persona che ha curato, oltre ai testi insieme a me, anche gli arrangiamenti del primo disco. Questo sarà un disco invece arrangiato interamente da me insieme a Lorenzo Piscopo, quindi a livello di sound sicuramente ci sarà un grande cambiamento. Anche a livello di testi, saranno testi un po' più personali, e che cercheranno di inquadrare un po' i vari momenti di quello che è stato il mio percorso di vita e anche artistico. Quindi sarà sicuramente un album diverso, questo è poco. Hai cominciato suonando in alcuni locali, pub fiorentini, club fiorentini, volevo sapere questo, perché tra l'altro a me piace molto Firenze, sono stato lì per un periodo, quindi mi piace sentire anche dal punto di vista musicale come si muove lì la scena in quel della Toscana. Dunque sì, ho suonato un po', diciamo, in tutti i locali del centro storico e non solo, quindi sono nella zona limitrofa di Firenze. Ah, perfetto. Il panorama musicale, mentre è stato magari un po' fermo, diciamo, dalla fine degli anni 90 fino alla prima parte del 2000, diciamo, successivamente all'Explorer fu dove emersero artisti tipo Masini, Vallesi, Rene Grandi, si era un po' fermato. In questo momento si respira un'aria un po' diversa, ci sono diversi progetti emergenti che stanno andando piuttosto bene, quindi direi che si respira un'aria positiva. Questo poi tra l'altro fa bene a tutti, cioè se tu stesso vedi che attorno si muove qualcosa, sei tu stesso anche a dare di più, a dare il massimo, quindi questo è molto bello. E tra l'altro mi viene in mente chiederti una cosa, ma per caso tipo ricordo un locale, una discoteca, ma dove anche forse si suona durante la settimana, Hotel Varieté, ricordo, a Firenze, ma lì si suona anche dal vivo, giusto? Sì, lì si suona anche dal vivo, è un locale piuttosto importante. Sì. Ecco, non mi sentivo più. E è un bel locale, insomma, fanno sempre spettacoli più che altro di varietà. Sì, diciamo, sì. A livello di musica originale un po' meno, però ci sono diverse band che fanno delle cover e che propongono anche degli spettacoli di varietà, ecco. Ok, quindi parliamo un po' del ballo del drink in particolare. Sì. Che è il nuovo singolo, quello che anticipa praticamente l'album che sta per uscire. Esatto, sì, il ballo del drink intanto ho visto che da un paio di settimane è anche nella Indie Music Like, che comunque è una classifica ormai diventata piuttosto importante, e questo mi fa molto piacere, ringrazio tra l'altro tutte le radio che mi hanno votato, insomma, ottimo. Fa sempre un gran piacere. E il ballo del drink, niente, è un racconto sostanzialmente di un uomo che passeggia in una serata, diciamo, solitaria con il suo cocktail in mano, e fa una riflessione, un bilancio, diciamo, di quello che è stato il suo percorso di vita fino a quel momento. Ne trae bene o male un risultato positivo, quindi torna a casa più contento rispetto a quando era uscito, e quindi diciamo è piuttosto ottimista, si vede diciamo il bicchiere mezzo pieno. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: l'effetto dura anche quando finisce, diciamo, l'effetto alcol, oppure dura soltanto il tempo di tornare a casa e addormentarsi? Questa è la domanda. No, sicuramente il tempo di tornare a casa e addormentarsi, però lascio a ognuno di noi che poi l'ascolta la propria visione, diciamo, della continuazione della storia. Bene, esatto. Matteo, purtroppo il tempo stringe, quindi hai un progetto di fare adesso un tour di presentazione del disco in uscita, o hai già delle date? Sicuramente sì, però ancora le date non ci sono, perché voglio che il tour sia più a ridosso dell'uscita del singolo, dell'album. Dell'album, e che ricordiamo si intitola Corona. No, scusa, Corona è il titolo del primo album. Corona è il titolo del primo album, il secondo ancora non ha un titolo definito. E appena saremo ancora più a ridosso comunicherò ovviamente il titolo e anche le date della tour. Va bene, noi ringraziamo allora Matteo di essere stato qui con noi e speriamo di risentirci presto, magari dopo che l'album sarà uscito, e ti auguriamo una... Soprattutto comunicaci il titolo del prossimo album e magari saremo felici di mandarlo in onda e facci sapere, quindi. Esatto, va bene, allora ringraziamo Matteo Moranduzzo da Firenze, grazie di tutto e ci sentiamo la prossima volta da Radio Panorama, grazie. Ciao! Grazie a voi, ciao. Adesso ci spaltiamo i Redoci. Spaltiamo? Sì, perché dopo la gara di appalto c'è lo spalto. Allora ci spaltiamo i Redoci Peppers con Guardati attorno, Look Around. Stiff club, it's my nature. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me bitch and you best beware. It's emotional and I told you so. But you had to know. So I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one. Ascoltato i Red Hot Chili Peppers con Look Around, sono sempre qui i nostri cari, noi siamo i tre allegri minchioni invece. Sì, ricomunichiamolo che la prossima settimana avremo con noi in intervista Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Woohoo! che tra l'altro sono stati in concerto a Palermo pochi giorni fa, la settimana scorsa. Esatto. Allora torniamo alla nostra classifica delle 10 cose che, ma in realtà le 10 cose da non fare al primo appuntamento. Ma rifacciamo un riepilogo delle prime tre posizioni in basso, cioè della 10, 9 e 8. Ostentare la propria situazione economica, la posizione numero 10, scusami se ti ho interrotto, la posizione numero 9. Invece abbiamo la logorrea, la posizione numero 8, l'uso costante del cellulare, alla posizione numero 7 l'imbarazzo dell'approccio fisico. E adesso andiamo alla posizione numero 6, dove abbiamo parlare del senso della vita. Per quanto ne sappia, i peggiori problemi del mondo non sono stati risolti durante un happy hour. La tua crisi di identità, che ti porta a chiederti da dove vieni e dove andrai, mi fa capire dove andrò io al più presto. A casa, lontano da te. Non sono la tua psichiatra. E alla posizione numero 5 invece commentare la tua migliore amica. Oh, ma ho visto su Facebook che sei amica di quella lì, ma quanto è figa. Adesso spiegami perché hai chiesto di uscire a me e non a lei. Beh, questa è una cosa che può capitare. Anche per fare la posizione numero 4 e lasciamo il podio alla fine e arrivare in ritardo. Eccomi, la puntualità è una delle prime forme di rispetto verso le persone che non si conoscono bene. In più, sei uomo, non ci provare nemmeno. Io purtroppo, ragazzi, peggio della logorrea, se mi danno appuntamento alle 7 io arrivo intorno alle 8 meno 10. Io non sono come te, ma diciamo che anch'io faccio un po' di lo sappiamo ancora che sei puntualissimo. Sì, lo sappiamo, però in radio arrivo alle 6 meno un minuto o alle prima 6 del... è un minuto mentre c'è già la sigla. Allora la classifica finale la lasciamo, ovviamente le tre posizioni finali le lasciamo alla fine perché siamo alla finale, cioè il podio finale. Alla fine, e io direi di continuare con qualche notizia. Parliamo di Papa Francesco. Sì. Ne avete parlato voi? No. Abbiamo annunciato che era... Allora, intanto ricordiamo che il 13 marzo alle 19 e qualche minuto, proprio durante il TG Lercio, e mentre noi giravamo il nostro primo e forse spero ultimo Harlem Shake in radio, veniva eletto Papa Francesco. C'era la fumata bianca, poi non abbiamo potuto assistere durante la diretta radio alla proclamazione, diciamo così, proclamazione che è una laurea. No, e comunque diciamo all'uscita, all'annunciazione del nome. L'annunciazione neanche, perché quella è un'altra cosa. Insomma, quando è uscito quello là alla finestra. Però Papa Francesco, devo dire che potrai aiutarmi anche tu, che non sei, diciamo, del mio stesso partito cattolico, sei un agnostico ateo. Piace. Devo dire che piace ai credenti quanto ai non credenti. Quindi io direi intanto un applauso a Papa Francesco, il buon Papa Ciccio. Se lo merita, perché comunque sai, dai piccoli gesti, intanto è proprio il Papa dei Papa gesti. Ciccio 1, diciamo. È sbagliato dire primo, cioè se ci saranno altri lui diventerà il primo. Lui su internet è Ciccio 1. Ciccio 1? Social... Ciccio 1 nei social network, quindi certo, se perché in effetti per ora è il solo. E quindi non al momento è solo Papa Francesco. Solo. Se ci sarà un altro Francesco, che poi tu dici, ma come caspita. Ma quindi i primi non esistono mai? No. Fino a quando non c'è un secondo. Perché quando il secondo non è più Papa Francesco primo, ma è Papa Francesco nel secondo. Attenzione. Abbiamo presentato La solitudine dei papi primi. Esatto. Il nuovo libro di Paolo Giordano. Rifettici. Sì, no, è vero che i primi non esistono. Ma poi se tu vai a vedere i nomi dei papi, io sono andato a San Pietro qualche giorno fa, ero a Roma, poco dopo l'elezione del Papa, e leggo tutti i nomi dei papi da San Pietro a ora Francesco. Cioè non c'è un Francesco. Un Francesco non c'è, 400 e rotti papi, non so quanti. E poi ti vai a trovare che c'è tipo Teofilo. Ma dico Teofilo, arrivati tipo al quarto, al quinto. Ma perché Teofilo? Ma perché Teofilo voleva essere il primo e l'unico. Tutti gli altri hanno fatto come dispettino. E dicevamo, insomma, Francesco piace perché è il papa dei gesti, è il papa che non vuole l'appartamento papale, ha rinunciato alle scarpe rosse, è andato anche a trovare in carcere appunto i detenuti, ha lavato a loro i piedi nel giovedì santo, come usanza della tradizione cristiana. Insomma, fa dei piccoli grandi gesti che piacciono perché è un papa spontaneo, si vede insomma che è stato sempre in mezzo alla gente, dal modo che ha di parlare anche dalla finestra, si vede tutto quanto. Quindi grandi auguri a Papa Ciccio e lunga vita. Lo intervisteremo magari un giorno. Sì, intanto Andrea sta vedendo i nomi dei papi. Sì, la lista dei nomi dei papi. C'è anche San Lino. Sì, esatto. Che ci teneva insomma avere tessuti di una certa qualità. Subito dopo Pietro, tra l'altro, il primo papa. Ma c'è anche Sant'Anacleto. Sì, il terzo. Anacleto a me ricorda, non c'era un cartone animato dove c'era Anacleto? Sì, la spada nella roccia. Bravo. Sì. E chi era Anacleto? Aspetta. Il gufo che rideva. Il gufo. Io vorrei rivederlo, la spada nella roccia. Perché da grande poi ho visto la spada nella doccia, quello di regia di Coso. Non so chi sia. Come non so chi sia? Il famoso. Non l'avete mai visto? No, mai visto. No, Bruma sì, ma guarda, si vergogna perché è fidanzato. Ma la spada nella doccia è un classico. È come non aver mai visto le studentesse sul biliardo. Ah, scusate. Capisco di che tenore. Ma poi dico, la spada nella doccia, secondo te di cosa può trattare? No, io ingenuamente non vabbè, a proposito di ingenuità, l'altro giorno Pesce d'Aprile, ci cascano tutti. Io scrivo che vado a Milano ad assistere alla al grande tour Guarda Milano. Tutti ci sono cascati. Tutti hanno detto amici idioti. Vabbè, dico Guarda Milano. Va bene che metto maiuscola la G e la M, non è che metto la G e la L. È bellissimo, ma su Wikipedia fino a un certo punto ci sono i ritratti dopo fotografie. Sì. A un certo punto è nata la fotografia. Io credo vediamo quando è nata. No, ma non è perché è nata la fotografia, cioè sarebbe stato simpatico fare 846, credo che questa sia una foto. Beato Pio IX. Beato il primo papa fotografato, quindi. È il primo a cui gli sono beato lui, che ha una fotografia. Stiamo degenerando. Vabbè. Chi è questo qui con un naso più grande di Cyrano? Gregorio XVI. Vabbè, ridaltonico anche per le stanghette che fanno lui. Va bene, allora abbiamo dato le nostre notizie. Io direi di leggere invece una di quelle molto importanti che insomma. Ma perché? Sì, di quelle che fanno riflettere sulla violenza. La violenza non possiamo più tollerarla. Assolutamente. Disegna un pene sulla faccia del coinquilino. Lui si vendica. Talvolta la convivenza è impossibile, come quella tra due ragazzi di Arlington in Virginia. Uno dei due, dopo una notte folle a base di alcol, ha deciso di disegnare un pene sulla faccia del coinquilino mentre si riprendeva dalla sbronza sul divano. E non si fanno queste cose, no. James Watson, elementare, dopo essersi guardato allo specchio e aver visto un pene sulla guancia sinistra, sei un cretino. Disegno indelebile è stato il compagno di stanza, mettendo in fila un cazzotto dopo l'altro. Il terzo inquilino dell'appartamento, smaltita la sbronza, ha deciso di chiamare la polizia. È una notizia molto, molto triste, effettivamente. E c'è anche il video del nostro James Watson da, insomma, da farvi notare. Io vi invito a vederlo, a cercare James Watson su Facebook per vedere il pene sulla guancia sinistra. Okay. Allora ci ascoltiamo. Siamo pronti, quindi vediamo. Suona al citofono, aspetta un attimo che apro. Chi è? Il presidente del consiglio, Michelino. Come sta? Incredibile, non ci aspetta. Ma come ha fatto a venire da Roma qui? Ah, ho capito, quindi in realtà lei non era lì il Quirinale, eravate già in Sicilia, quindi anche il presidente napolitano è qui. Come, già l'ha ucciso? Ah, uno sgambetto, ho capito male. Senti, Michelino, che sei ormai presidente del consiglio, vuoi annunciare il prossimo pezzo? Mica? Certo, dobbiamo celebrare il nuovo presidente del consiglio. E allora? Celebrate in italiano. Celebriamolo! Mica. Featuring Pharrell Williams, Celebrate con Mica. Mica. Grazie. Mica male. Celebrate. Yeah. Abbiamo subito con noi un grandissimo ospite che vado a presentare in questa bellissima puntata. Lui è un ex lo vado a medico, chiamare, lo vado vai, a chiamare. Dai Antonio, un ex medico nutrizionista che è... Sì, dai Antonio, siediti. Che è stato cacciato dall'ordine dei medici molto tempo fa per aver causato involontariamente la morte di un soggetto malato di ipertensione, consigliandogli la ricetta dell'anduja calabrese. Lui è infatti calabro di origini e da allora, per lavare l'onta di questa diciamo di questa omicidio colposo, sì, possiamo dirlo colposo, lui viaggia nel Radio d'Italia per portare qual è la bella cucina calabrese. Il mercoledì è qui da noi a Radio Panorama all'onda in onda e noi siamo lieti di presentare e di avere con noi Tony Scopelliti. Sì, vai, quelli che sono tutti, la campanaccia, venuto con le pecore. Caro Tony, caro Tony. Alle pecore, mettetevi da lato, che fare il chi prima, subito adesso. Cosa ha detto, mi scusi? Alle pecore, mettetevi. No, non lo voglio risentire. Buongiorno, Tony, come sta? Ma lei mi ha detto cosa avevo detto? No, non lo voglio sapere. Ah, non potete dire. Non tutto a posto! Che ricetta ci porta oggi? Oggi ve la leggo direttamente dal mio nuovissimo libro che si chiama Mangia con Mia che ci pensa Maria. Cosa? Ma chi è Maria? La Madonnuzza. Ah, la Madonnuzza, certo. Lei è molto credente. C'è molto, moltissimo. Io ho pure la croce fatta con la canduia. Con l'anduia calabrese. Sì, sì, ho la croce d'anduia calabrese. Che lo sa che Papa Francesco... Antidemonio, diciamo. Lo sa che Papa Francesco... Lo sa... Sì, me poliziavo mosso. Lei lo sa che Papa Francesco, prima di diventare Papa, quando era ancora Jorge Bergoglio, è venuto e per me era motivo... calabrese, Jorge Bergoglio. Esatto. Non era un nome. E per me è motivo di grande vergoglio raccontarlo, certo. Che è venuto a mangiare in mia. Addirittura. Nel mio ristorante. Ma prima che lei fosse cacciata dall'ordine... No, dopo, perché no, poi non andava a dire... No, ristorante e dico certo, dopo che fu cacciata. Ha ragione, ha ragione. Io ho pregato e il venne in mia. Ho capito. Dall'Argentina col furgone. Col furgone. Esatto. Che ricetta ci porta oggi? Oggi i melungiani che ne cura corchi menzia. Cosa? I melungiani che ne cura corchi. Che cosa? I melungiani e sono le melanzane, questo lo posso capire. Chine, quindi le ripiene. Con racorchia. Cos'è racorchia? Ah, la corchia. Esatto. Vedremo. Quindi, lei si fidi, ora lo scopriremo. Mi fido, mi fido. Ma quindi sono melanzane e ripiene. Secondo me è carne la corchia. Tra l'altro è il piatto che diedi al Papa. Ah, questo. Quindi mangiate quando ancora era cardinale. Quindi se lui da cardinale diventa Papa, mettiamo che viene da me uno spazzino, diventa il direttore dell'AMIA. Certo, ma quelli sono gli ingredienti. Allora, intanto ci vanno 20 melanzane. Per quante persone? Due. Due per 10 è una cenetta romantica. Non ho capito. È un ha capito? No, no, ho capito. Ah, ho detto, ok. 10 melanzane a testa. Sì. 4 kg di carne macinata. Mm. Ok? Certo. Poi ci vanno... Come si riempiono 10 melanzane con 4 kg di carne? No, è la carne che si riempie di melanzane. Ah, così. Diciamo quindi era corchia, china di melinciani. È l'effetto matriosca o contrario. Ho capito. Poi ci vanno 10 uova. Ma per caso è a corchia, china di melinciani, chi melinciani, chi ricorchia? Esatto. Cioè le melanzane ripiene sono infilate dentro la carne. Che al mercato mio padre comprò. Okay. Allora, poi mollica di pane. Quindi vanno comprate con vostro padre al mercato. Mi raccomando, 10 esatto. Melanzane e 4 kg di carne macinata. Esatto. Poi, 2 uova. No, no, 10. 10 uova. Sì. 10 uova. Mollica è bella proteica. Mollica giusto. Di pane. Sì. O di pene. Ma dipende pane, se siete se non pugliesi. C'è il pane al mercato no, assolutamente no. A mio padre comprò. Potete cercare il topolino perché il topolino trova sempre il pane. Poi andiamo, 8 cucchiai di parmigiano grattugiato. Certo. Possibilmente grattugiatelo sul viso di vostra moglie. Certo, che viene molto più dolce. Sì. Poi 3 cucchiai di formaggio a pecorino. No. Pecorino, non sì. C'era là. Bravo. Stranamente mi scappò. Che schifo, ma mi sta sputando sì. Tutto poi, continuiamo. Non pensavo. Poi ci vuole un cacio... Cacio a cavallo. Esatto. Sì. Tanto, quanto? Tanto. Una forma intera. Dipende la forma. Un cioè, cavallo proprio. No, no, dipende la forma. Se è una forma di forma circolare, allora una basta. Se è triangolare, due. Ho capito. Poi, prezzemolo. Sì. Succo di pomodoro che non fresco fatto vicino di me. Quello con i peperoni di Tropea, sì, esatto. Sappiamo. Ma poi. Che dire peperoncini, però va bene. Prezzemolo, l'abbiamo detto, pepe niuru, sì. Quindi dall'Africa, e l'olio extravergine d'oliva. Va bene, andiamo avanti, non faccio battute sull'extravergine perché non posso più. Preparazione, come si fa questa ricetta? Allora, lavate le melungiane. Sì. Non sfiati, lei sta... Sta sgonfiando come un palloncino. Un palloncino. Un palloncino. Un palloncino. No, un palloncino. Tony, per favore, un po' di contegno. Mi sento male. Lavatele. Tagliatele e scavatele. se possibile con una, come si chiama, la palette. La palette. Poi leccarle. Lessarle. Sì. Nell'acqua calda salata. Sì. Fare attenzione che non perdano di consistenza, se no le buttate e lo rifate. Certo. Toglierle dal fuoco. Sì. Se la casa va a fuoco. E scolarle. Sì. Adagiare le bucce su un piatto. Fare una preghierina, perché il piatto, ricordiamo che mangiò Papa, Jorge, certo, Bergoglio. Sì. Salarle e peparle. Sì. In un'altra pentola, quindi ne preparate un'altra. Pigliate e bollite la polpa delle melugiane, che servirà per il ripieno. Questa ricetta mi piace un sacco. Devo vede che comunque serve. Vede, loro sono il ripieno per la carne. Carne, mi raccomando, carta e penna a casa. La polpa dovrà essere sfracciata con le mani, o se siete senza mani, mettiamola, avete persa in guerra, con le forbici da vostro parente. E messa da parte, servirà per il ripieno. Sì. Poi bagnare del pane. C'è un po' di questo sapore di mistero, ma allora, bollite il pane, bagnate il pane e sbriciolare. C'è il regista che si sente male, chi hai? E sbriciolare la mollica e metterla da lato. Servirà anche questa per una barzelletta. Bagna il pane e poi mette la mollica da parte. Esatto, tutto va di lato, e come prende l'arte e mette da parte. Sì. Non sa per ne va. Nel frattempo, però, che succede? Mentre intanto la giornata va avanti, vostro marito torna a casa, che si mangia? Ah, questa è una ricetta lunga. Caro, intanto io c'ho il ripieno, ora vedremo come combinare. Torna sopra. Nel frattempo, in un recipiente, qua c'è un'accelerazione. Quindi, pronti con la penna? Via! Porre le uova, il pepe nero, un pizzico di sale, il prezzemolo tritato finemente, la carne. Ma dove porle? Porle, no. In un altro recipiente. Vabbè, amalgamare, incorporare, ma non lo sentivo da una vita. La mollica di pane precedentemente preparata. Ma l'ha scritto lei il libro. Ah, vero. La polpa, ma non lo sentivo da tanto per scriverlo. La polpa delle mulungiane, il parmigiano e il pecorino. Amalgamare, inserire la farcitura nelle melanzane facendo attenzione che non si rompa. Certo, stare a cura, bisogna stare attenti. Non stanno a sprugare, non stanno a monogare. Insomma, chiedo che. Porre al centro un bastoncino finto, no, di caciocavallo, e adagiarvi sopra ancora del ripieno. Foto durante il riempimento. Questo l'ha messa era una didascalia. Foto, sì, non era da leggere. Foto l'ha anche scritto. La dovete fare la foto prima, quando, prima di andare avanti. Fate una foto. Il regista comunque consiglia. Ma lo sa che fate buono, la foto. Cioè sono buone. È veramente buona. Fate friggere le melanzane con l'impasto calato nell'olio bollente per qualche minuto. Porre poi le melanzane in un'unghiana in una teglia irrorata. Irrorata, credo che non sia neanche nel dizionario, col sugo. Coprire con uno strato di sugo e parmigiano. Infornare a 180 gradi, quindi dovete fare un giro doppio su voi stesse, fino a quando non si formerà una crosticina. Ve allora, la levate e lo mangiate. La ricetta è veramente bella, se volete la vera ricetta, perché a me piace, occhiettineri.it, sono le mulungianechine cura corchia, cioè le melanzane ripiene, sono veramente buone. È stato bello. Caro Tony, va bene, allora, ci rivediamo. Tonino, caro Tony. Ci rivediamo. Mercoledì prossimo. Assolutamente, no? Sì, 10 aprile saremo tutti qui. Ha un'altra ricetta, la vuole anticipata? No. Va bene. Ce lo dice direttamente mercoledì prossimo. Gliela dico in calabrese strettissimo, che manco si capisce. La la conoscevo. Perfetto. L'ho fatta ieri a pranzo. Ascoltiamoci la primavera fuori con Sparami nei dettagli. Eccoci tornati qui in diretta. Il regista mi sta facendo segni quando potevo parlare. Sono le 19.44 ed è entrata Eleonora. Ciao Eleonora, con una mano fasciata. Perché si è? Cosa è successo? Dai, tu che ora... Vai, dillo al microfono. Sono fatta male all'adduttore del pollice. Fantastico. L'adduttore del pollice. Andrea, tu che non hai fatto latino, secondo te adduttore che vuol dire avvicino o allontano? Avvicino. Bravo, e invece se era allontanare? Allontoro. Allontoro, diventa sardo. Abduttore. Ab. Ma tu che non hai fatto latino, te lo perdoniamo. Potrebbe essere anche il titolo di un nuovo film brutto, infatti abbiamo subito la sigla con noi. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E diamo subito il benvenuto al secondo toscano di oggi. Ciao grandissimo Marco! Meravigliosi, come state? Benissimo, adesso che ti sentiamo sicuramente meglio. Meglio del primo stiamo bene con tutti i toscani. Sì. Intanto voglio dire da prima che questo film brutto io lo voglio vedere stasera. Quindi dimmi subito il titolo, anche perché lo dedico anche al mio amico Daniele, che per la prima volta è all'ascolto. E soprattutto perché di questo film brutto, caro Marco? Perché nasce purtroppo... proprio da una notizia tragica. Vai tutto esatto. Tu, diamo lo spazio che vuoi. Il film di stasera è Killer Barbies, che è uno degli ultimi film del maestro, lasciatemi usare questo termine non a sproposito, il maestro Jess Franco, che purtroppo sì. Si è spento ieri dopo più di 140 film brutti. E allora facciamo un applauso per ricordare Jess Franco. Maestro del trash, definito tra l'altro, è morto ieri a 82 anni stroncato da un ictus. Assolutamente un grandissimo, tra l'altro un pioniere, perché dobbiamo anche pensare che nella Spagna franchista non era assolutamente facile girare certi tipi di film, insomma, con certo. Vampiri, scene insomma un po' spinte, quindi insomma è stato veramente un grande. Veniamo però adesso al film, che oltre ad essere uno dei più recenti è probabilmente uno dei peggiori. Ricordiamo il suo cult, che è Vampiros Lesbos. Esatto, esatto. Titolo meraviglioso. Già dal titolo insomma... Sì, dice tutto. Ma noi vogliamo appunto parlare di Killer Barbies, anche solo per dimostrare come nel 1996, dopo più di 50 anni di onorata carriera, Jess Franco avesse ancora voglia di cimentarsi in queste pellicole a basso costo, con l'entusiasmo di un ragazzino. E la storia è veramente trita e ritrita, sempre la solita storia. C'è un gruppo di ragazzi... che in questo caso in realtà è un gruppo musicale che si chiama appunto Killer Barbies, ingaggiati da Jess Franco per l'occasione, che si perde nella campagna in cerca del prossimo localaccio in cui suonare, e praticamente trova ospitalità in un vecchio maniero, dove ovviamente vive una contessa che è una vampira, che per mantenere il suo corpo giovane e fresco deve periodicamente nutrirsi di una bevanda che è un misto di sangue e sperma. Buono! Bel frullato, guarda. Salutiamo i bambini all'ascolto, Eleonora che è ospite qui alza il pollice, anche Daniele da casa. Eleonora è fan di sangue e sperma. Sì, è sperma, sì, li beve sempre a colazione, sì, c'è chi prende fette biscottate e lei invece frullatino. Allora, continua Marco. Chiaramente quale migliore occasione per la contessa che l'arrivo è tutto il pacchettone ragazzi, insomma, carne fresca insomma, sì. No? E quindi chiaramente coadiuvata dal classico maggiordomo un po' rimbambito, la contessa riesce a far fuori due o tre di questi ragazzi per poter diciamo avere la sua dose di pozione ringiovanente. Poi chiaramente un paio di ragazzi riesce diciamo a scampare agli agguati del maggiordomo, e poi facendo esplodere il proprio pulmino, il Bustur, che è un pulmino veramente scrauso che dura fatica diciamo a mettersi in moto, riescono a far esplodere completamente il maniero, facendo esplodere il furgoncino, insomma, disintegrano completamente tutto. Tra l'altro uno dei superstiti praticamente riesce a partecipare al piano, insomma, a questa riuscita di salvezza finale con la sgozzata, non si capisce bene come posso, diciamo, continuare a vivere, visto che il maggiordomo gli ha praticamente segato la carotide, però insomma, diciamo, ce la fa. Il film, diciamo, offre abbastanza poco, però diciamo, Jeff Franco ci fa vedere come ancora alle porte del 2000 gli effetti speciali old style con le teste cartonate, sì, e il sangue fatto con la marmellata abbiano ancora, diciamo, il loro buon fatto. Beh, è quasi splatter questo film praticamente. È abbastanza splatter, diciamo, non mancano i momenti un po' forti, insomma. Però scusami Marco, ma Mariangela Giordano e fa la contessa, no? Leggo che è del 37, quindi aveva 58 anni quando è stato girato questo film. Io mi immaginavo invece una contessa un po' più fresca. Quindi è proprio brutto, cioè è brutto, brutto. È brutto brutto, d'altronde Mariangela Giordano è una veterana di questo tipo di film, quindi insomma, Jeff Franco ha probabilmente deciso di puntare un po' sull'usato sicuro, insomma, per questo film. Che chiaramente ha dei buchi di sceneggiatura che non sto nemmeno a dirvi, però insomma si lascia guardare giusto per quelle scene un po' forti, no? Ecco, forse la scena clou è quella della freccia, no? Che viene scagliata e fracassa il cranio del maggiordomo, cioè la classica testona di cartone, insomma, truccata che fa sempre la sua bella figura. Peccato, perché poi leggo, scusami se aggiungo questa nota, ma Mariangela Giordano ha recitato anche, aveva recitato prima con Verdone e poi l'ultimo con Ferzan Ospetek, che è Cuore Sacro. Cuore Sacro. Quindi sì, diciamo, si è ripresa però. Si è ripresa. Complimenti anche a Jesus Franco che diciamo, mette in questo calderone questi attori. Quindi ci consigli Killer Barbies da mangiare con cosa però? Da mangiare. Cioè da mangiare con cosa, sì. Cioè tu mangi Killer Barbies e guardi un'altra cosa. Esatto. Esatto, sì. Esattamente. E visto che si tratta di un horror vampiresco, quale miglior snack del troll di Dracula? Ovviamente. Cos'è? Assolutamente penso il trash snack più bello del mondo. Sono delle dentiere di gomma fatte con tanto di canini acuminati, caramelle gommose fatte appunto a bocca di vampiro, che diciamo lo spettatore può masticare con una certa fatica e deglutire con notevole impegno mentre può gustare questo bel film brutto di Jeff Franco. E senti, se accompagnassimo questo cibo con un Bloody Mary mentre magari si vede questa scena della contessa che beve il sangue e sperma, che ne pensi? Beh, potrebbe essere film bruttesco il Bloody Mary, oppure è troppo buono per un film brutto? Guarda, fa molto il contesto, quindi penso che vada più che bene. Va bene, ok, allora Killer Barbies del 1986. Vuoi aggiungere qualcos'altro su questo film o anticiparci il prossimo? Ma direi possiamo fare un'anticipazione sul prossimo. Siamo in debito con i nostri ascoltatori di un ritorno in Vietnam, quindi non posso far altro che darvi appuntamento alla prossima settimana, e il regista è ancora una volta Bruno Mattei. Ah già, il grande, abbiamo lasciato la settimana scorsa, siamo andati in onda. Purtroppo non c'è più tempo, Marco, ci vediamo mercoledì prossimo, ci sentiamo mercoledì prossimo, adesso ci ascoltiamo in Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Grazie Marco, ciao! Ciao! Fa sempre piacere ascoltare Nirvana. Siamo sempre qui in diretta, dobbiamo finire la classifica perché poi dobbiamo fare un ricordo importante. Due ricordi. Allora sì, andiamo alla classifica delle 10 cose da non fare al primo appuntamento. Andiamo subito al podio, non abbiamo tempo di fare il riepilogo. Allora, al terzo posto, chiedere con quanti uomini sei andata a letto. Sei un indelicato, un cafone, soprattutto non ci conosciamo, non ti deve importare con quanti uomini sia stata, anche i peggiori di loro non si sono mai permessi di farmi una domanda del genere. E andiamo alla medaglia d'argento, parlare della ex, perché lei è così, lei ha fatto così, lei mi ha lasciato così. Inizio a capire molte cose e non posso darle torto, ma rullo di tamburi, perché alla posizione numero 1 delle 10 cose da non fare al primo appuntamento, invitare e non offrire. Regola base del galateo dell'appuntamento: tu mi inviti, tu offri. Mi hai prestato per settimane e adesso non merito nemmeno i 10 euro di un cocktail pezzente. E questa era la classifica delle 10 cose da non fare al primo appuntamento. Speriamo che tutti voi all'ascolto abbiate preso nota, Daniele, Stefania e tutti gli altri. Allora, è importante invece rilevare che ci sono dei piccoli dialoghi che sono delle perle. Io soprattutto faccio... in tema di amore. Sì, in tema di amore. Lui dice: so amare. E lei: non ci credo, dimostramelo. Vabbè, allora assaggia ste olive e dimmi se non so amare. Cioè, queste sono piccole perle. Le stronzate delle 19:56. Che quindi stanotte saranno 1:56 minuti, esatto. Se siamo puntuali. Aspetta, prima di salutare, silenzio, abbassa la musica. Non abbiamo passato nessun loro pezzo. Recupereremo mercoledì prossimo. Però non possiamo non ricordare due grandissimi della musica italiana che ci hanno lasciato a 24 ore di distanza, gioco ironia della sorte, l'uno dall'altro. Il maestro Enzo Iannacci da Milano e il grande Franco Califano da Roma, che hanno scritto pezzi stupendi. Andate a guardare non solo la discografia, ma i pezzi che non sapete che hanno scritto loro e che in realtà sono proprio usciti dalla loro penna. Quindi andate a vedere, perché veramente hanno scritto dei capolavori, sono dei grandi. E pochi giorni dopo ci ha lasciato appunto James Franco, maestro del trash. Quindi ci hanno lasciato tre grandi. E come dice il grande Califano, diceva, e l'hanno scritto sulla sua lapide nella tomba: non escludo il ritorno. E noi vogliamo ricordarlo così. Allora, noi vi ringraziamo per aver avuto la pazienza, la voglia, la simpatia di ascoltarci anche per queste due ore, anche in questo mercoledì 3 aprile 2013. La primavera ormai è iniziata e noi siamo sempre più caldi. E allora ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Lui era Andrea. Lui era Antonio. E di là c'era Bruma. Visitate anche lercio.it. Visitate lercio.it. Ci vediamo settimana prossima. Ciao. No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make the money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. No, you can't use a car, cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Yeah.